1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Ci siamo all'alba della 97esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. Alba, oddio, noi siamo qui appunto dalle 6.30, ma la 97esima settimana è già ben cominciata, cari ascoltatori, e chissà se sarà quella decisiva. Noi attendiamo con fiducia. Intanto ci occuperemo dalle 8.15 della sicurezza nelle nostre città. Si racconta di un milione di persone pronte a partire dalla Libia per arrivare in Italia e poi andare in Europa, per la verità, un po' in giro. È davvero così, ma ci vorremmo concentrare anche sui poteri maggiori che si vogliono dare ai sindaci, per esempio contro l'accattonaggio molesto. Avremo ospite un sindaco, il sindaco di Varese, Attilio Fontana, della Lega, che vuole requisire le monete raccolte dai questuanti. Avremo ospite anche però un benzinaio che ha dovuto utilizzare la pistola, come ha fatto Stacchio in Veneto, ve lo ricordate? E che dice però ora non la utilizzerei più, ma insomma la paura purtroppo c'è, la paura c'è. Avremo ospite anche Alessandro Robecchi, giornalista, scrittore, spesso nostro ospite, insomma discuteremo di questo dalle 8.15, insieme a voi se volete anche chiamarci, i centralini sono aperti dalle 8, poi vi darò il numero verde. Intanto andiamo a leggere i giornali. Questo lunedì 9 marzo, i titoli, il lunedì in genere essendo il giorno dopo la domenica, i giornalisti lavorano meno, le notizie latitano. Comunque, il Sole 24 Ore apre sulla caccia alle polizze che allarma le professioni. È l'aumento della responsabilità che rende più difficile e costoso dotarsi di una copertura per i tanti professionisti. Per il Corriere della Sera l'apertura è questa: la Grecia scuote l'Europa. Repubblica invece, Rai, ecco il piano, i nuovi manager scelti dal governo. Anche per il Messaggero, la Grecia mina nel giorno della BCE, parte il quantitative easing. Mentre il Giornale ha questa notizia: vogliono truccare il voto in Veneto. I furbetti delle regionali, lo vedremo, è una strategia politica di Tosi che oggi rischia l'esclusione dalla Lega e vuol far cambiare in Veneto la legge elettorale. Berlusconi dice no, PD diviso, a rischio le riforme di Renzi. Questa invece è l'apertura della Stampa, molto politica. Io voglio iniziare però da una lettura molto particolare. Ce ne siamo occupati anche noi il 31 marzo, chiudono ufficialmente per legge gli ospedali psichiatrico-giudiziari, i cosiddetti OPG, dal 31 marzo. Oggi Paolo Giordano, scrittore, scrive due belle pagine sul Corriere della Sera che vi segnalo, pagina 20 e 21. Gli ultimi internati della nostra storia, così finisce un'idea di detenzione. Scrive Giordano: ho sempre diffidato anche letterariamente di chi vedeva nella follia un accesso privilegiato alla verità. Eppure, mentre parlavo con gli internati dell'OPG di Aversa, ho avuto forte la sensazione che guardassero dentro un abisso che competeva anche a me, che compete tutti noi, con la sola differenza che su quell'abisso loro si sporgevano pericolosamente, senza mai riuscire a distoglierne lo sguardo. Ci sono efferatezze nel passato di molti degli internati del Filippo Saporito, aggressioni, violenze carnali, patricidi, matricidi, e altrettante sono le atrocità nel passato dell'OPG stesso. Qui entrò la commissione presieduta da Marino nel 2010 e si trovò davanti uno scenario raccapricciante: sporcizia, sovraffollamento, detenuti legati ai loro letti, pratiche che rasentavano le sevizie. A vedere il vecchio letto di contenzione, che viene adesso conservato come una reliquia, con l'orrido buco al centro per le deiezioni dei malati, non si può non domandarsi come sia stato possibile che una misura simile fosse ancora in uso 5 anni fa. Oggi al Filippo Saporito si avverte soprattutto una specie di trauma al contrario, la diffidenza del personale nei riguardi del visitatore esterno, di colui che potrebbe giudicare, scrivere e così rinnovare la vergogna. Ciò che sta succedendo è la chiusura dei 6 OPG ancora attivi in Italia. La data prevista è il 31 marzo, non si attendono proroghe. I circa 700 internati verranno redistribuiti in base a un principio di appartenenza territoriale. Viene da domandarsi, scrive ancora Giordano, perché se certe idee circolano nella medicina da oltre 200 anni, ci abbiamo impiegato tanto perché fino a ieri i detenuti psichiatrici del nostro paese fossero la categoria più radicalmente privata di diritti, perfino di quelli fondamentali che assicurano la dignità dell'essere umano. La risposta era già in grado di fornirla Foucault quando scrisse: quanto al malato mentale, egli rappresenta il residuo di tutti i residui, il residuo di tutte le discipline, inassimilabile a tutte quelle che si possono trovare in una società. Certo, più che il passato sconcertante, occorre adesso considerare il futuro prossimo, che in questo processo evolutivo porta con sé preoccupazioni legittime da parte di molti. Ci sono le ansie dei detenuti. Al Filippo Saporito ho cercato di capire quale chiarezza gli internati avessero dei cambiamenti in atto e per lo più è emersa una grande confusione. Ho chiesto a uno se a casa sua in Abruzzo ci fosse qualcuno ad attenderlo. Andrò a stare da mia madre, ha detto. Aveva una fiducia struggente in quel ricongiungimento. La tua famiglia viene a trovarti spesso? No, abitano lontano. Ma qualcuno è mai venuto? Le mie sorelle, una volta in 9 mesi. Ecco, è questa molto spesso la realtà dei residui, un abbandono radicale che comincia in seno alla famiglia e si estende alla comunità, alla società tutta. Lo stesso abbandono che ha perpetuato l'esistenza degli OPG, piccoli inferni locali come quello di Aversa, proprio nel centro storico. Non ci saranno molte famiglie pronte a riprendersi i loro folli. Perciò quell'accoglienza viene richiesta a tutti noi, in quanto cittadini. A partire dal 31 marzo vedremo sotto una luce nuova che tipo di paese siamo, quale livello di maturità abbiamo raggiunto, con quanto coraggio siamo disposti a guardare dritto dentro l'abisso. Ecco, mi sono dilungato un po' di più in questa lettura, che peraltro ho sintetizzato, di Paolo Giordano. Sono 2 pagine in vista della chiusura degli ospedali psichiatrico-giudiziari. Il 31 marzo, le trovate queste 2 pagine sul Corriere della Sera, sono davvero molto belle a mio modo di vedere. Parliamo invece di scuola, torna la questione della buona scuola, ma allora questo decreto è sparito, questo decreto non si fa più, si fa il disegno di legge. Oggi sul Messaggero ci sono dettagli di quella che potrebbe essere l'iter dei tanti precari, qua 150.000, 660, 180, non si capisce bene quali siano i numeri precisi. Comunque, scuola, precari, assunti in 2 tappe, ai, già si prevede che entro quest'anno non si riuscirà, come è stato promesso, ad assumere tutti i precari. Camilla Mozzetti racconta sul Messaggero a pagina 9 che probabilmente le strade saranno 2. 50.000 potrebbero essere 50.000 dei 120.000 presunti, quelli iscritti nelle graduatorie d'istituto potrebbero essere assunti dal settembre di quest'anno e gli altri invece dall'anno prossimo. Ai, staremo a vedere. La promessa era di assumerli tutti quest'anno, ma insomma mancano pochi mesi, vedremo. Tornano invece le polemiche sui circhi, il circo in Italia, in particolare quei circhi che vengono condannati per maltrattamento degli animali. Nonostante ciò, questa è una denuncia della LAV, ieri la Lega Antivivisezione, ricevono soldi pubblici del Fondo Unico dello Spettacolo. Pagina 20 di Repubblica. I circhi condannati per violenze sugli animali, ma lo Stato li finanzia. Giuseppe Caporale racconta questo dossier denuncia della Lega Antivivisezione. Per esempio racconta del circo Aldo Martini, condannato a Bologna per servizi, sevizie nei confronti di una giraffa. Nonostante ciò ha ricevuto 92.000 euro. Mentre il circo Città di Roma, condannato in via definitiva per aver detenuto elefanti in condizioni di quasi immobilità, ha ottenuto nonostante ciò 300.000 euro. Il circo Folloni, condannato a Milano per aver immobilizzato un elefante sotto il tendone a una tavola di legno di 6 metri quadri legandolo con 2 catene, ha ottenuto 70.000 euro. E la lista è lunga. Repubblica denuncia, pagina 20, con questo dossier della LAV, questa che viene definita una vergogna, i circhi o sotto inchiesta o anche condannati ma destinatari di contributi pubblici. E va bene, siamo al momento dell'articolo che ci fa più sorridere di questa giornata per iniziare la settimana molto bene. Se siete alla guida, come sempre, mani sul volante. Ieri sul Corriere leggevo che è uscita una pagina in cui si racconta come nel prossimo futuro scomparirà il volante dalla macchina. Ho detto, no, come facciamo noi a tenere poi le mani strette sul volante se scompare il volante? Non sia mai fatto, non sia mai fatto. Comunque, mani strette sul volante, tazzine del caffè bollente da appoggiare subito, perché Jihadi John, quello che è conosciuto come Mohammed Mwazi, quello che ha sgozzato almeno 8 ostaggi, si è pentito. Si è pentito, ha scritto una lettera, lo fa sapere il Sunday Times. Ha scritto una lettera accorata, ha scritto ai propri genitori dicendo: cari genitori, scusatemi. Mi dispiace per tutto il danno che sto arrecando alla famiglia. E lo ha fatto perché, secondo il Corano, chi crea preoccupazione ai propri genitori può finire all'inferno. Ma capite, degli 8 sgozzati non gliene frega assolutamente nulla. Il giorno il boia inglese si scusa con i genitori. Non volevo causarvi problemi. Così per il Corano è a posto, non va all'inferno. E degli 8 sgozzati, beh, di quelli manco un rimorso. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, il giornalista di Radio 24. Eh certo, sono il vostro giornalista preferito, spero, come sapete. Allora, la politica oggi, essendo lunedì, si anima per quelle 2-3 dichiarazioni strappate da alcuni leader in questi stanchi weekend, e sono di una noia mortale, molto più che durante la settimana. Oggi poi la settimana si animerà, magari qualcosa di più interessante c'è nei prossimi giorni. Per il momento tutti i giornali si concentrano su questo intervento telefonico di Berlusconi, che è intervenuto in una kermesse elettorale per lanciare il candidato del centrodestra in Puglia, Schittulli, e ha detto in pratica: noi domani non voteremo le riforme. Berlusconi al testa dell'aula, diremo no. Pagina 5 del Corriere, ma lo trovate ovunque, in fotocopia su tutti i giornali. Berlusconi dice no al voto sulle riforme, e Renzi risponde nella sua consueta e-news, cioè sull'online, non lo so dove la pubblichi, sul suo sito, con l'elenco dei programmi, e dice, rispondendo in qualche modo a Berlusconi: ma che autoritari, non siamo autoritari, sceglierà il paese con un referendum. Ecco, questo è sintetizzato in 5 parole la politica allo stato dell'arte, la discussione sulle riforme. Anche la minoranza PD si rifà viva, il senatore Dattore Bersaniano, intervistato dal Giorno a pagina 2-3, dice: la spaccatura nel PD è profonda, le riforme sono a rischio e noi troveremo tutte le forme e i modi per esprimere la posizione critica. Ci incontriamo lunedì sera per decidere, ma i passaggi cruciali saranno nelle prossime tappe. Renzi vi dà dei gufi? Finora abbiamo dimostrato senso di responsabilità, ora tocca a lui. Ecco, questa è la posizione politica di Dattore, che rappresenta la minoranza del PD. Sicuramente è più interessante l'indiscrezione che c'è nel titolo di pagina 1, di prima pagina, e poi a pagina 2-3 di Repubblica, su che cosa ha in mente Renzi per riformare la RAI. Ecco il piano, i nuovi manager scelti dal governo. Pagina 2-3, Francesco Bei anticipa quello che è il piano Renzi. Un manager al vertice nominato dal governo, e alle Camere solo il controllo. Certo, verrebbe da dire che l'obiettivo principale di Renzi è quello di togliere la RAI dal controllo dei partiti. Se la soluzione è mettere un direttore generale plenipotenziario scelto direttamente dall'esecutivo, non lo so, è questa la ricetta, forse per toglierlo ai partiti e darlo al partito. che in quel momento di turno è al governo. Comunque, Francesco Bei racconta: il cavallo di Viale Mazzini avrà tra poco in groppa un solo cavaliere, un vero amministratore delegato, con poteri ampi, come in qualunque azienda privata. Modello codice civile, spiegano nel governo, e nominato direttamente dall'esecutivo. Questa è la principale innovazione della governance RAI immaginata da Renzi per superare la legge Gasparri. Un modello che porta a rottamare l'attuale gestione mista CDA direttore generale, nel tentativo di allontanare i partiti dall'amministrazione diretta dell'azienda. Ecco, qui però Bei fa la stessa critica. Però accentrando in capo al governo la scelta dell'amministratore unico, non mancherà di sollevare polemiche. In ogni caso ci siamo, la svolta è vicina. In settimana, scrive Renzi, iniziamo l'esame in Consiglio dei Ministri per chiuderlo velocemente. Significa abbandonare ufficialmente il decreto a favore di un disegno di legge. Lo stesso metodo della scuola. Quindi non ci sarà il decreto anche sulla RAI, ma un disegno di legge. Il modello studiato a Palazzo Chigi fa perno sulla separazione netta tra gestione e controllo. L'importante è affidare a un amministratore la responsabilità di guidare l'azienda, senza continuamente mediare con il consiglio di amministrazione sulle scelte operative. Se non porta risultati viene cacciato via, ma deve poter decidere come fanno tutti i manager. Quindi questa è la linea sulla RAI da parte di Renzi. C'è anche un'intervista a pagina 3 di Annalisa Cuzzocrea a Roberto Fico, cioè il presidente della commissione vigilanza RAI del Movimento 5 Stelle. Dice Fico: siamo pronti a discutere con tutti, ma diremo no a modifiche al ribasso. Se una materia come la RAI, l'iniziativa parlamentare sarebbe stata maggiormente auspicabile, dice Fico. Detto questo, andiamo avanti con la nostra proposta, che venerdì ha passato il vaglio degli uffici della Camera. Punti fondamentali sono competenza, indipendenza, onorabilità delle persone che dovranno ricoprire il ruolo di consiglieri di amministrazione RAI. Ci sarà un avviso di gara pubblica su criteri oggettivi. La GCOM fungerà esclusivamente da cabina di regia, in nessun modo discrezionale. I consiglieri da 9 passano a 5, tra questi sarà scelto l'amministratore delegato. Saranno 2 per la parte autorale, i requisiti molto specifici, 2 per quella economico-giuridica e 1 con una formazione tecnologico-scientifica. Caratteristiche richieste saranno stringenti. Dalla rosa di nomi che verrà fuori si sceglierà per sorteggio il direttore generale. Questa è la proposta dunque del Movimento 5 Stelle: 5 consiglieri, 2 con alcune caratteristiche, 2 con altri, 1 con formazione tecnologica, e poi si sceglie per sorteggio il direttore generale. Staremo a vedere se questa riforma RAI ci sarà. Staremo a vedere anche oggi la giornata decisiva, sì, l'ho detto, per la questione Lega. Verrà espulso oggi Tosi? È presumibile. Alle 15.30 si riunisce un comitato di disciplina e controllo, presieduto tra l'altro da Umberto Bossi, cioè il presidente della Lega. Umberto Bossi, che racconta da tutti i giornali, in passato ha avuto molti screzi con Flavio Tosi, potrebbe essere lui a dover certificare la espulsione di fatto di Flavio Tosi. Ovviamente è una giornata in cui ci sono dichiarazioni e bisognerà stare a verificare. Gli articoli più interessanti sulla Lega sono 2. 1, Paolo Bracalini sul Giornale, anche l'apertura del Giornale. Attenzione, perché secondo il Giornale Flavio Tosi avrebbe un disegno politico dopo l'espulsione per farla pagare alla Lega. Il titolo di prima pagina del Giornale è questo: vogliono truccare il voto in Veneto. Paolo Bracalini racconta pagina 4. L'ipotesi è questa: Tosi, se cacciato dalla Lega, finirà per appoggiare la pidina Moretti e far perdere il Veneto alla Lega. Il cavallo di Troia è un emendamento alla legge elettorale regionale presentato dal consigliere Diego Bottacin, ex coordinatore della Margherita, eletto nel PD, ora nel Misto. È un interlocutore di Tosi. Questo emendamento introduce un ballottaggio in Veneto, cioè chi non arriva al 42,5% alle regionali al primo turno va al ballottaggio. Introduce il ballottaggio alle regionali, se viene approvato. Ecco allora che l'obiettivo, secondo il Giornale, è questo: il disegno di Tosi, fare un blitz sulla legge elettorale, far approvare questo emendamento per introdurre il ballottaggio con l'ok anche del nuovo centrodestra, e al secondo turno a quel punto il sindaco potrebbe addirittura sostenere la Moretti. Salvini già dice: vogliono fregarci. Staremo a vedere. Intanto sapete chi compare nella Lega? Chi ricompare? Belsito. Ebbene sì, lui. Colui che fu accusato di portare i soldi della Lega in diamanti in Tanzania. L'ex tesoriere leghista viene scovato dal secolo XIX, Bruno Viani. A pagina 4 e 5 sapete cosa fa a Genova Belsito ora? Il barista. È socio di un bar. Davanti alla sua gelateria l'altra mattina li ha visti sfilare tutti i leghisti noti e meno noti, il segretario Salvini, il candidato governatore. Nessuno è entrato nel suo bar, gestito come socio in quella che lui definisce l'inizio della mia seconda vita. Premette, di verde ormai mi è rimasto solo i coni al pistacchio. Non ho provato nemmeno per un attimo il desiderio di riuscire ad ascoltare il comizio della Lega. Giura di non voler parlare, poi rassicurato sul fatto che non parleremo dei diamanti, non parleremo della famiglia Bossi, ecco che dice qualche parola. E tra queste Salvini dico che sta facendo il lavoro giusto. E è il futuro della Lega. Forse lo dice perché le ha fatto un regalo non piccolo, visto che la Lega ha rinunciato a chiedere un risarcimento milionario? No, sta facendo quello che è giusto, cavalcando il malcontento della gente che non ne può più. Il futuro della Lega è lui. Così parlò Belsito, ex tesoriere leghista. Ieri sono andato a dormire, cioè ho spento tutto, ho detto vado a dormire dicendo vabbè, anche nei momenti di grave difficoltà ricordiamoci che c'è pur sempre l'Inter. Ma l'Inter era sotto 2-0. Poi Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno e caro Alessandro. Ho venduto la pelle dell'orso. La classica vendita. Nella vita c'è chi rimonta e chi viene rimontato. Lo so bene. È così, senti, oggi è una giornata, ma possiamo dire decisiva? Sì, dai, oggi. Oggi è una giornata. Te ne assumi di le responsabilità civili e penali. È una giornata di sigle, il CU e anche il QE. Oh. Stai attento a non fare confusione tra le sigle, perché sennò vengono fuori anche delle cose foneticamente sgradevoli. Il CU, perché entro oggi la certificazione unica alle entrate, ne parliamo sul Sole 24 Ore, nelle pagine di norme e tributi, questa volta non ti faccio indovinare perché sento che sei ancora smarrito, e il QE, cioè il QE, il quantitative easing, perché da cui ci aspettiamo tante cose meravigliose, e anche di questo parliamo sul Sole 24 Ore. Ti invito a leggere nelle nostre pagine, così anche se non hai ancora capito di che si tratta, finalmente potresti trovare un'utile traccia. E poi domani presentiamo in edicola una nuova rivista, un mensile, anzi scusa, lo faccio un pochino dedicato, qui Radio Fisco, domani con il Sole 24 Ore, Norme e Tributi Mese, rivista di dottrina e approfondimento fiscale. Puoi andare ormai a fare l'annunciatrice della nuova governance della RAI, potresti l'annunciatore. Ma non c'è un posticino lì a Radio 24? Non so, mi puoi far lanciare qualche cosa, del resto insomma diciamo che tutte le mattine qualcosina lo lancio. Poi non vorrei che tu non ti dimenticassi del ravvedimento per l'IMU, che è l'IMU agricola, per il 16 marzo, mi raccomando segnatelo. E poi, come hai visto, oggi lanciamo anche questo allarme sulla vicenda delle polizze assicurative dei professionisti, perché attaccato al CU, che è la certificazione unica, attaccato al CU c'è anche questo problemuccio delle polizze di copertura, non solo per i professionisti del fisco, anche per altri professionisti ci sono problemi di polizza, ma tutto questo sul Sole 24 Ore nelle pagine iniziali, no? Vedi che io il gelo sei stato attento. E poi naturalmente oggi è il primo giorno operativo del JA, in un certo senso. Il JA ti sfugge, secondo JA, me. JA, effettivamente. Il JA è il Jobs Act, ma si poteva dire riforma del lavoro, però no, No, nel senso che sono in vigore i decreti, il contratto di tutele crescenti da sabato, ma il GIA in un certo senso oggi parte, perché insomma di sabato difficilmente ci sono assunzioni, ci sono uffici del personale che sono operativi, anzi HR, Human Resources, che sono operativi. Va bene, e a questo punto lo dico in inglese o in italiano, secondo ma te? Fai cosa? Tu, fai tu. Ma faccio così. Va bene, traffic! Alessandro Milan, il Bonobox dell'informazione. Ma magari, ragazzi. Voi guardate Madonna, guardate Madonna. Io da piccolo, da giovane, volevo fare Bono. Cioè non il cantante, non è che volevo fare il cantante, volevo essere Bono. Non un cantante, il cantante, avete capito? Il cantante degli U2. Vabbè. Sogni, sogni. Vabbè, tornano le province. Qui dai sogni, da Bono, piombiamo nella drammatica realtà. Le province. Del Rio fa un'intervista al Giorno, a pagina 5, per scuotere le regioni. Questo è il titolo. Su costi e dipendenti tocca a voi. Dipendenti da spostare, risorse da definire, polemiche. Così inizia l'intervista di Davide Nitrosi. Allora... Del Rio, cosa si è risparmiato con la riforma delle province? Lui dice, Del Rio risponde, 1.150 milioni dall'abolizione dei consigli provinciali. Il miliardo invece in generale è ottenuto grazie al riordino delle competenze alla fine delle sovrapposizioni di servizi con altri enti, perché lo Stato ha lasciato due competenze alle province, le strade provinciali e le scuole, le altre sono in capo alle regioni. Sì, ma bisogna chiarire i passaggi. Chiede il Giorno. Con le leggi di riordino devono riprendersi le regioni le competenze che non vogliono lasciare alle province, definendo le risorse personale e costi finanziari. Le leggi di riordino sono state fatte da 12 regioni su 15, ma diciamo che solo una, la Toscana, l'ha fatta completamente, le altre in modo parziale. La Toscana si è assunta la responsabilità che il federalismo le aveva dato. Insomma, è tutto legato alle responsabilità delle regioni, dice Del Rio. Assumersi assumere il personale e inglobare il personale e anche le competenze che non spettano più alle province, che ci sono ancora, come sapete. Vabbè, di Jobs Act ha parlato Mauro Meazza oggi, appunto. Racconta al Sole 24 Ore con Francesca Barbieri, scatta il contratto a tutele crescenti per una platea iniziale di 680.000 potenziali candidati. Tutti i dettagli li trovate sul Sole 24 Ore, mentre il Giornale, nella parte del lunedì controcorrente, racconta in qualche modo il fallimento di Garanzia Giovani, 1,5 miliardi di euro buttati via, un tesoretto sciupato. È Stefano Filippi che racconta dei corsi di formazione, tirocini e stage. Garanzia Giovani doveva fare molto, ma il governo sta a guardare, gli imprenditori non trovano chi assumere. Sono due pagine, pagina 9 e 10 su Garanzia Giovani, su quelle che erano le potenzialità evidentemente di questo strumento che non sono state utilizzate. Intanto in Grecia, e la Grecia torna nuovamente sulle prime pagine dei giornali, alcuni giornali ci aprono, perché? Perché le riforme promesse dal governo greco, ieri c'è un'intervista al ministro delle finanze Varoufakis al Corriere della Sera, le riforme sono tutt'altro che complete, così ha sancito l'Unione Europea. E quindi ecco qui, pagina 2 del Corriere, Atene, saltano gli aiuti di marzo. Le riforme sono insufficienti e richiedono tempi lunghi. Questo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, l'olandese Dijsselbloem. È intervenuto per sostenere che la lista delle riforme greche è lontana dall'essere completa. Saltano gli aiuti di marzo e racconta il Corriere tutti gli ostacoli del negoziato sulla Grecia e anche il ruolo giudicato ingombrante di Varoufakis, il ministro alle finanze. Come detto, c'è molto anche di notizie internazionali sui giornali, c'è soprattutto questa vicenda della Russia, dove sarebbe conclusa la questione di chi ha ucciso Boris Nemtsov, leader dell'opposizione, perché, confessa uno dei sospetti, hanno preso 5 ceceni. Uno invece si è suicidato facendosi saltare con una granata al momento dell'arresto. È una versione che però sembra un po' una versione di comodo. Perché l'avete fatto? Per denaro. Bah, denaro. C'è addirittura un'intervista a Frederick Forsyth, maestro del thriller, scrittore, intervistato da Repubblica, da Enrico Franceschini, che dice: mi sembra una trama troppo semplice, una trama scritta dal potere. I russi non si devono fidare, perché il giallista inglese, che legge con molti dubbi le indagini di Mosca, dice: se fosse una spy story i lettori capirebbero subito che c'è un tentativo di nascondere i colpevoli da parte delle autorità russe. L'intervista a Frederick Forsyth la trovate a pagina 15 del quotidiano Repubblica. Tornando all'Italia, ci sono alcune vicende di cronaca interessanti che volevo segnalare. L'ultima perizia su Pantani, la morte per alcuni misteriosa di Marco Pantani, scomparso il 14 febbraio del 2004 in una casa, in un albergo a Rimini, in un residence. L'ultima perizia su Pantani, racconta il Corriere della Sera, pagina 17, con Andrea Pasqualetto, è overdose di psicofarmaci. Sarebbero stati questi gli psicofarmaci, e dunque diminuendo il ruolo della cocaina, ridimensionando la questione cocaina, sarebbero stati invece gli psicofarmaci, secondo una nuova perizia firmata da un professore di Verona, la causa vera della morte di Pantani. In questa perizia viene escluso l'omicidio, ma ovviamente chissà. Vabbè, siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi. Ebbene sì, Andrea Scanzi vince a pagina 3 del Fatto Quotidiano, con mezza pagina di racconto dettagliato dell'intervista di Fabio Fazio a Madonna ieri. Ma io dico, ma che poi il problema di Madonna, come ieri ho twittato, è che fa delle canzoni brutte. Tutto qua, canzoni brutte. Ma chi se ne frega!